padrone. Ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero. Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, non sarà, figaro il vice.